Oncologico Quotidiano, a cura di Felice Came e di Carlo Liva, senza tanti artifici, un po' spontanea, un po' improvvisata, diciamo. Parleremo di errori di argomentazioni, di spostamenti di limiti innominabili, peraltro, nonché della responsabilità del narrare.